Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby, say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry, 'cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my lovin' on the run. Quest'oggi iniziamo con Enter the Joker, un grandissimo classico, ormai non solo novità nel mio spazio, come succedeva invece la sera, ma giustamente anche qualche grande successo dal passato. Bentrovati su Rock FM, oggi vi avviso che per giuri in giuretta l'ultima volta sono in versione virtuale. E, è capitato spesso e volentieri anche in passato di essere virtuale, però in questo periodo è così, si cerca di fare il meno possibile questa cosa. Oggi è l'ultima, quindi da domani, ripeto, giuro in giuretta, si torna a interagire, anche perché l'interazione fortunatamente in questo periodo è molto molto forte, anche se ahimè durerà ancora per poco. Allora, ne abbiamo iniziato con un classico e ne arriva una bella novità. Questo è un nuovissimo singolo dei Coldplay con Violent Hill. We'll be right back. snow. All that time she was silent still. So if you love me, won't you let me know? If you love me, won't you let me know? Il nuovo singolo dei Coldplay, che non è Violent Hill ma Violet Hill. Io ci devo sempre mettere un po' di violenza, sono un po' irruente come il DJ Ed. E poi c'erano i Dead Sixties dall'Inghilterra con Stand Up Band, che ormai abbiamo perso visto che nel corso di questi ultimi mesi hanno deciso di sciogliersi. Hanno fatto un casino e tutto per, beh, un casino no, però insomma tanto per avere un contratto discografico, per suonare un po' in giro. Poi appena le cose iniziano ad andare si sono sciolti. Ora in live questa All Over You. I love you like water, being down in views from being strained. I love you no other than me alone, from me only. I love you like water. Caso di una band che in America va fortissimo, grandissimo successo, in Europa un po' meno, perché nel corso di questi anni abbiamo spesso volentieri proposto i live e molti che hanno apprezzato hanno detto: ma perché non vengono a suonare nel nostro paese? Perché li avremmo visti tipo in 3 in 4. Però ripeto, in America grande successo. Questa era All Over You, ed ecco anche il, a proposito di band grandi a casa loro e un po' meno nel resto del mondo, ci sono anche i Three Doors Down, anche se loro magari rispetto ai live sono più recenti e qualche passo in più l'hanno fatto, ma non, ma niente di importantissimo, ecco, mettiamola così. I Three Doors Down, questa è It's Not My Time. It's getting harder to breathe. C'erano appunto i Live, c'erano i Three Girls Down e anche i Jimmy Eat World con Big Casino. Adesso invece rimaniamo in Italia. In arrivo ci sono i Baustelle, recentemente passati qui a Rock FM. Li ascoltiamo con il nuovo singolo, questo è Colombo. Siamo architetti ricchi di Belen e vecchie dive del mar. Abbiamo ville, abbiamo Cadillac ed uccidiamo per soldi come te. rispettabili e ci inchiniamo al denaro come te. Yeah, no, yeah. Legali intorno a questa, in questo best, perché c'era Courtney Love che non voleva, adesso non ricordo chi non voleva pubblicarlo, se Courtney Love o Dave Grohl, insomma, o il resto di Nirvana, quindi veramente un casino. Poi alla fine si sono messi d'accordo ovviamente in termini di soldi e il best è arrivato con appunto un singolo inedito che abbiamo già in sottofondo, lo ascoltiamo subito ed è molto bello. Nirvana, questa You Know You're Right. I will never promise to, I will never follow you, I will never bother you. Nothing really bothers her. She just wants to love herself.